Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Siamo in collegamento con Luca Malatesta, chitarrista dei Dormen. Ciao Luca, benvenuto su Radio Città Fujiko. Ciao, grazie a voi. Intanto partiamo subito col botto. Come nasce il progetto Dormen? Allora, il progetto dei Dormen nasce un sacco di tempo fa, tipo 10 anni fa, nel 2011, da un incontro tra me e Vince, il cantante Vincenzo. Da di lì abbiamo iniziato a scrivere le prime canzoni a quattro mani e abbiamo pubblicato il primo disco omonimo nel 2011, The Dormen, che è stato autoprodotto ed è stato registrato agli studi 73 da Riccardo Pasini a Ravenna. Abbiamo avuto questa fortuna di conoscere Paolo Mauri, che diciamo è ancora adesso un po' il factotum che sta dietro al banco mixer degli After Hours, ha lavorato con Verdena, Luce della Centrale Elettrica, diciamo ci ha dato una mano a sviluppare un po' il nostro suono, il nostro sound, che era a quel tempo molto diretto e embrionale. Abbiamo scritto il primo disco nel giro di 5-6 mesi, perché io avevo delle canzoni, Vince aveva delle canzoni, quindi abbiamo cercato di amalgamare il tutto il più possibile insieme, ecco. Il 5 maggio uscirà il vostro quinto disco, The Truth in a Dark Age. Ti va di raccontarci Com'è nato l'album? Ma allora, fondamentalmente le canzoni di questo disco, rispetto a tutti gli altri album, è nato durante, purtroppo, a me mi scoccia anche dirlo, perché mi evoca un brutto periodo, che appunto è stato quello della pandemia, quindi della chiusura totale di ogni, diciamo, evento o situazione in cui io o chi ha sempre collaborato con me nella band, a cui eravamo abituati. Quindi ho un ricordo molto, diciamo, negativa di questa cosa, che però con il passare del tempo, sempre proiettato l'immagine in quel periodo, mi ha dato l'opportunità di sviluppare delle canzoni con cui ho condiviso sempre con mio compagno di merende, quindi Vincenzo, ecco. Da lì ci siamo focalizzati lui un sacco sui testi. Un lavoro comunque abbastanza diretto. Sono 27-28 minuti di 8 canzoni che ti avvolgono e ti accompagnano in un viaggio e sei proprio totalmente immersa da questo sound, che è a mio avviso, perché ci ho lavorato un sacco io personalmente sugli arrangiamenti, è molto avvolgente, molto, molto affascinante. Sono d'accordo, perché anche rispetto al vostro precedente album, che era Plastic Breakfast, che era più diretto, sì, più aggressivo, invece il nuovo album si presenta più morbido, più avvolgente. E volevo a proposito chiederti quali sono state le differenze con il nuovo progetto e cos'è cambiato nel vostro approccio musicale. Plastic Breakfast sono quattro ragazzi che vanno in sala prove e registrano un disco in presa diretta, che poi è quello che abbiamo fatto sempre dal nostro producer e studio di registrazione, dove noi siamo molto affezionati, è il VDS Recording Studio vicino a Frosinone, e dove c'è Filippo Strang che ci ha dato una mano e degli ottimi consigli anche durante la fase di registrazione sia di Plastic Breakfast che The Truth in a Dark Age. Solo che con Plastic Breakfast siamo andati tutti e quattro, chitarra, basso e batteria. Avevamo già le idee, perché comunque l'avevamo sviluppato nell'arco di 2 anni quel disco, però diciamo era un disco più con quattro teste, e si sente secondo me sta cosa. Ci sono alcuni momenti che secondo me personalmente, per come scrivo e come compongo, sono molto un copia incolla di varie influenze che ognuno di noi quattro allora aveva e quindi ha cercato di riprodurre nel disco, con un risultato che era quello che volevamo. Era proprio una roba che è tipo come quando vai alle prove e fai il live, e quindi è stato anche una roba che ci è venuta viscerale e diretta. The Through in the Dark Age siamo andati in studio soltanto io e Vincenzo, perché diciamo che in questo periodo qui Tommaso, che è rientrato in formazione, è diventato papà. Poi comunque eravamo sempre nella fase di scrittura, quindi non è che avevamo l'esigenza di provare tutte e quattro insieme, perché io avevo già le canzoni e Vincenzo aveva già i testi. Stavamo provando solo io e lui per fare tutto lo scheletro, l'ossatura del disco, nel salotto di casa mia poi, tra l'altro. Quindi noi abbiamo fatto questa cosa in due, infatti siamo andati in studio in due, perché allo stesso tempo, sempre durante la pandemia, Andrea, che è il nostro batterista, diciamo, storico, perché è stato con noi 4-5 anni, anche lui è diventato papà. In più aveva dei progetti un po' suoi personali di elettronica, tra l'altro molto interessante, si chiama Mutamento, e stava sviluppando un altro album con la sua band storica, che sono Void of Sleep. E quindi dopo lui non riusciva più a seguirci, e quindi avevamo deciso anche quest'inverno di fare un tour di presentazione del singolo, che è stato Glass Factory, e l'abbiamo portato in giro in tutti i club Club, abbiamo fatto un mini showcase al Covo e poi abbiamo suonato in varie situazioni, a Milano, a Firenze. È stato recensito molto bene in America, cosa che è stata anche piuttosto inaspettata per noi, perché comunque entrare nel circuito di un mercato così grande, ci hanno fatto veramente delle belle recensioni. E quindi dopo alla fine ci siamo detti, speriamo che il disco sia all'altezza del singolo, e secondo me lo è. Comunque lo è un gran bel disco, ti avvolge, ti trascina in un'altra dimensione. E un'altra cosa che mi ha colpito molto è stata la cover. E volevo chiederti, qual è la storia dietro questa foto? Nella cover si vedono due amanti che si baciano su una macchina, sembra quasi che la ragazza stia per partire. Noi abbiamo trovato questa immagine e l'ho proposta con Vince nell'internet. Sono andata a verificare, era veramente un'immagine di una persona, non so chi è che l'ha scattata, ma non famosa. E poi ci ha colpito e mi ha colpito appunto perché sì, ci sono questi due amanti che scappano e diciamo sono avvolti dall'unica protezione che appunto è l'automobile, dove loro stanno consumando un loro momento, no? Una cosa intensa, riparo da tutti. E mi è piaciuto questa immagine perché comunque dava quel senso di comunque intensità, perché il disco è anche molto intenso e riserva anche dei momenti molto riflessivi, personali, dove sei veramente chiuso dentro a un involucro, a un qualcosa, a una capsula, e quindi l'automobile mi piaceva. E poi è stata comunque rivisitata, diciamo abbastanza modificata rispetto all'immagine che era originale, da Matteo Pozzi, che ci ha curato l'artwork della copertina, che poi tra l'altro Matteo è molto conosciuto come musicista, e ricordiamo i Cacao e gli Action Man, che sono di Ravenna, e quindi ci ha dato una mano a sviluppare questa copertina che io trovo meravigliosa. In realtà ci sta dando ancora una mano per preparare tutto il mock-up del vinile, che purtroppo alla presentazione del disco, che sarà sabato 22 aprile al Covo Club di Bologna, non avremo il vinile. Quindi abbiamo l'idea di preparare un mock-up, una simulazione di quello che sarà il vinile, e poi dopo al Covo utilizzare questa copia qui come una specie di crowdfunding. Persona interessata si potrà assegnare in una mail list, dare un contributo e l'anticipo, e con questi soldi qui verrà prodotto appunto il vinile, e poi dopo successivamente verrà recapitato e spedito. È un'ottima idea, anche perché così spingiamo gli ascoltatori alla presentazione del disco in anteprima, appunto come ci hai ricordato tu, il 22 aprile al Covo Club qui a Bologna. Ti ringrazio tantissimo per la bella chiacchierata, invitiamo tutti i nostri ascoltatori il 5 maggio a scaricare il disco e per chi riesce il 22 aprile al live al Covo. Grazie mille. Esatto, grazie a voi. Ciao, ciao.